Ci tenevo ad essere presente qui a Bangkok in questi giorni perché il funerale di Re Rama IX è sicuramente l'evento storico per definizione della Thailandia moderna. Re Bhumibol è stato al trono per 70 anni e quindi diciamo che in epoca moderna non si era mai assistito a un funerale di re. E tra l'altro di un re così amato e così ben voluto come è stato Rama IX. I funerali sono una ritualità molto complessa, i funerali di un re qui in Thailandia, tra l'altro un funerale che avviene a distanza di un anno dalla morte, questo perché si ritiene che le anime più pure, più importanti, abbiano bisogno di un tempo prolungato prima di lasciarle andare del tutto. Quindi oggi c'è stata questa celebrazione che è iniziata molto presto, perché è iniziata questa mattina alle 7. Secondo un rituale che coniuga religione induista braminica e religione buddista della corrente Theravada. Quindi si assiste a un continuo alternarsi di queste due ritualità, sono soprattutto i bramini quelli che guidano il cerimoniale, però con innesti continui anche di buddismo Theravada, quindi con la presenza dei monaci e del patriarca. L'urna reale è stata, dopo alcuni riti di offerte ai monaci fatte dal re, dell'attuale re figlio di Rama IX, è stata trasferita con un complicatissimo sistema di palanchini e carri, diciamo il carro della vittoria, che è questo carro più importante, che segna il trasferimento verso il paradiso del defunto re. E che viene accompagnato, dicevo, con questo carro della vittoria al crematorio reale che è stato costruito al San Anluan, che è una grande piazza, un grande spazio aperto nei pressi del Palazzo Reale. Il crematorio che ha delle caratteristiche uniche, nel senso che è alto 53 metri e intorno sono state create delle installazioni simboliche che ricordano soprattutto i progetti di sviluppo che il re ha diciamo, realizzato e finanziato negli anni del suo regno. Il crematorio in realtà simboleggia il Monte Meru, cioè l'universo dell'induismo. Quindi il re viene portato al centro del crematorio, che rappresenta il centro dell'universo, e i pannelli che sono all'interno del crematorio simboleggiano e indicano la via verso il paradiso. Questa è, diciamo, la simbologia ridotta, ovviamente sintetizzata il più possibile. La cosa impressionante di queste giornate è la partecipazione del popolo. Qui a Bangkok sono arrivate circa 250.000 persone nei pressi del Palazzo Reale, appunto del luogo dove c'è il crematorio, persone che praticamente sono accampate per strada da martedì, devo dire con una compostezza e sobrietà incredibili. E anche con un'organizzazione di un'efficienza unica. Sostanzialmente, camminando per strada, incontri ogni pochi metri e volontari. I volontari sono migliaia che ti offrono dalle bottiglie d'acqua, i sali minerali per integrare. Calcolate che fa molto caldo, quindi assolutamente, diciamo, elementi utili. Offrono pasti caldi in continuazione. Ci sono moltissimi punti anche di primo soccorso perché ovviamente il caldo e lo stato emotivo provoca anche situazioni, diciamo, difficili, anche se la caratteristica è sempre questa grandissima compostezza. Si vedono persone piangere, però io lo chiamo il pianto thailandese, nel senso che è sempre estremamente composto. Loro tra l'altro hanno un termine molto bello per definire quando sono tristi, che dicono Namta Tok Nai Chai, che significa le lacrime cadono dentro al cuore. Questa modalità di vivere il sentimento senza farlo vedere all'esterno. Quindi è veramente qualcosa di incredibile. Fanno un sacrificio enorme. La prima notte ha piovuto, quindi ci sono queste fotografie di loro dentro i sacchi a pelo, qualcuno con delle coperte di fortuna e l'ombrello, e sono rimasti qui pur di dare l'estremo saluto al loro re. La maggior parte di loro non ha conosciuto altro re, ha conosciuto soltanto re Rama IX. E ovviamente la narrativa ufficiale per Rama IX è stata sempre e comunque una narrativa del padre della nazione. Loro ovviamente hanno termini che possiamo paragonare al nostro vocabolo re o maestà, eccetera. Però nei cartelloni che si vedono in giro si vede la parola Po, padre. E quindi questo sentimento collettivo di una nazione che è rimasta orfana. E veramente qualcosa di impressionante. Io ho girato per le strade, non sono riuscita assolutamente ad arrivare al San Alluan, appunto al luogo del crematorio, perché veramente fisicamente non è possibile arrivarci. Eppure vedi persone che rimangono in fila per ore lungo le strade, lungo i vicoli, sempre di più. Stamattina sono arrivati fino ai vicoli laterali delle strade, diciamo, principali che portano al San Alduan. E stasera, con il fatto che hanno iniziato diciamo, a permettere l'offerta dei fiori, ci sono file chilometriche da questa mattina per poter consegnare i fiori, ma neanche al crematorio del re. Ma in tutte le repliche che hanno creato le piccole repliche del crematorio in tutto il paese, sono 85 sparse in tutta la Thailandia, e ci sono file chilometriche in ogni città, in ogni sito, per consegnare questi fiori come omaggio per onorare la memoria di Re Rama IX. Quindi è una partecipazione, un sentimento collettivo di popolo importantissimo. Poi ripeto, l'atmosfera è molto, molto bella. Io, ieri sono stata in mezzo a loro. A un certo punto mi hanno indicato che dovevo mettermi seduta perché stava passando l'attuale re, Rama X, e quindi sono rimasta seduta tra di loro. E loro mi dicevano continuamente: scusa, scusa, ma deve passare il re, passa il re. E quando, riuscendo a parlare anche in Thai, gli dicevo: non vi preoccupate, lo so. Mi fecero dei grandissimi sorrisi, continuavano ad offrirmi l'acqua, a offrirmi il cibo. Cioè, è veramente un sentimento fraterno che li sta unendo veramente tantissimo. Poi ovviamente su una gestione di giorni di 250.000 persone forse ci sarà anche qualche discrepanza, non lo so. Però la sensazione è quella di un popolo che sta vivendo in maniera molto seria e sobria la perdita del proprio padre. Possiamo anche inserire alcune curiosità nel racconto di questo rito. Quella che può essere più interessante è che l'urna che è stata portata in processione, parata funebre, come vogliamo chiamarla, in realtà è un'urna vuota, perché i resti del re, per tradizione, vengono portati la notte prima sul luogo della cremazione, e questo evento viene chiamato il furto del corpo del re, anche se in realtà non è un furto perché poi lo sanno tutti. E sembra che sia un'usanza che è entrata nella storia dal tempo del regno di Ayutthaya, che risponde in realtà a una questione pratica, cioè la tempistica per poi portare effettivamente la bara da un luogo all'altro senza che preceda l'urna, eccetera. Quindi da un dato molto pratico nasce questa cosa strana del furto del corpo del re, che viene nottetempo portato al crematorio, e questa notte ci sono stati anche dei testimoni che poi l'hanno raccontato, e l'urna viene invece poi portata in processione, ma all'interno è contenuta soltanto una placca d'oro con incise la data di nascita e la data di morte del re. Poi l'altra curiosità è che nel pomeriggio alle 5 si è svolto questo rito che in realtà anche in questo caso, di nuovo simbolico, è una cremazione rappresentata ma non reale. La cremazione vera e propria inizierà in realtà questa sera alle 10 di questa sera. La cremazione avviene per la seconda volta nell'era moderna utilizzando dei bruciatori elettrici. Questo perché quando ci furono i funerali della madre di Re Rama IX, quando si usavano invece dei bruciatori a gas, a un certo punto persero il controllo del fuoco e ci fu il rischio che prendesse fuoco tutto il crematorio in un attimo. E quindi quando ci sono stati poi i funerali della sorella di Re Rama IX, si è attuato quest'altro sistema perché con i bruciatori elettrici riescono ad avere un controllo migliore. Ultima caratteristica, che il crematorio, che è stato costruito in un anno, alto 53 metri, che è veramente bellissimo, io si riusciva a vedere anche a distanza, in realtà è una costruzione assolutamente provvisoria che verrà smantellata a cominciare dai primi di dicembre, ripristinato il prato come in origine il San Juan. Questo perché ritengono che mantenere troppo a lungo il crematorio porti sfortuna e quindi non viene lasciato più di tanto in piedi. Ed è incredibile perché è una costruzione veramente meravigliosa, però non sarà assolutamente definitiva.